su bene l'antenna e metterla come i cristiani. Fare un piantone magari a terra, un plintino con un tubo interno e tirare su. Perché quella è una bella zona, se tira su arriva bene a tutte le parti. Se la tiene così bassa, troppo poco mi arriva. Il piatto 2 a Vigneto mi arrivava 9.30 a casa, e domani arrivi 9.10, infatti ho conto. Sì, ma la mia è sopra un palo da 12 metri, ero in alto, non lo so, la zona di Riccardino dov'è. Cazzo la mia, l'antenna è sopra un palo da 12 metri. Natalì, 200 metri da dove abiti tu, 200 metri, sempre in quella zona, sempre la stessa regione, barca. Dove basta l'antenna? A chi sì? Poco poco. Basta l'antenna, vedi come sta arrivando il Riccardino. Ma infatti la zona è la tua, la stessa zona. Però è bassa, capito? Avanti Gianni, adesso lo metti a posto questo microfono. Ho ripreso, là, ti ho mandato una foto. Sì, ma ci vediamo, ma questo microfono continua a fischiare. Non ho capito il perché. Ma l'hai spostato? Non ho spostato niente io. Devo andare via, va uno addirittura. No, sta continuando a innescare, non lo so. Non stavi innescando, andavi benissimo. Lo sai già voi se sei stesso. Io ho capito, ma che fischia. Come baciano? La Madonna! Come baciano? Come bacia? Come bacia? Come bacia? Gappa gappa! E quella... Cos'è la direttiva? Cos'è la direttiva? Altri elementi viaggi, come quella che ho io per i 10 metri. Allora vedi questa antenna, è simile a quella tua, mi Massimilia. Sì, vabbè, ma già lo so, va. Te l'ho mandata così, ho di nuta. Sì, non so c'è perché. Sì. Va bene. Non è così bassa. Insomma. Aspetta, già ce n'è di tubo. Mi pare già o 6-8 metri quello di sotto. Va bene, va bene, è la zona che è un po' particolare. Vabbè, ma magari può anche spostarla da lì, capito, quando non le va più bene, e se la porta un pochino più all'aperto, là. Quanto ti arriva a te? Quasi 9.15, 9.10 abbondante. Cosa vuoi? L'ho tricurvato e venne a fare i buchi. Non so, ma quanto ce l'hai adesso? Uno l'hai messo? Ehi, guarda, bene va adesso. Ma cos'è uno? Non è uno vicino. Allora, il piede inchinato, riguardalo bene, bene, bene dritto, io ce l'ho a 1, allora, 0, 1, 1 e mezzo, 1 e 7, 1 e 8, non ci arrivo a 2, dai. Cazzo, voi che mando la foto, a 1, Sì, ma c'è qualcosa che non va lì, però. Non so se c'è qualcosa vicino, c'è un rientro, ogni tanto fa un fischio, Massimiliano, anche se ce l'hai a 1, non è questione di amplificazione, sta prendendo qualche rientro da qualcosa quel microfono. Ma c'hai luce accesa di strumento per caso? No, tutto spento, c'ho alimentatore e radio, basta, non c'ho altro. Guarda, vedere, così? No, lo sento. Che non sia il cavo magari, guarda così. Non so come l'hai passato il cavo, non l'ha posizionato da reddo alla radio, no? Mettilo davanti al microfono il cavo, fallo vedere il cavo, non lo mettere sotto la radio, no? L'acqua di un cavo sotto la radio, non si mette il cavo sotto la radio, ma si vedrà che fa rientro, fallo vedere, mettilo a fianco il cavo alle MC60. Ma se non ne faceva mai il rientro, va oggi è tutto di sugoso, vado. L'hai messo il cavo? L'hai tolto il cavo? No, non l'ho tolto, lo lascio così. E allora lascialo uscire. Ogni tanto fa questo coso, dove tic. Vabbè, tienilo così, vabbè. Fermati le biatte. Tutto duzzinato, la tutto di lato, la passata da reddo. Grazie che non ti duzzina gira il balle. Ma guarda bene, cazzo, ma perché sprechi fiato, cazzo? Guardala bene la foto, cazzo. Ma cosa di raggio? Cosa mai di raggio? Di raggio sei duci. A te l'aria di Olbia ti ha fatto male oggi, sono sicuro. Ma scusa, allora, dove c'è il microfono? È passato dall'altra parte, dietro, ok? Dietro oppure sotto, Non te lo puoi mettere al contrario alla radio? Al contrario non lo puoi fare. Il microfono dalla parte dello smitter? No, non mi piace. Il cavo non è passato dietro la radio, ma è sotto il cavalletto, ok? E non è tirato per niente. Sì, sotto il cavalletto fa così, entro. Ma fotti i denti. Tienilo così, ti piace così, tienilo così. Non c'è problema. Scappa brioche. Va bene, vai Natali. Io non da ricari, se ne para, come ti ripare dei biazzi. Cosa Natali? Io non da ricari, para, come ti ripare dei biazzi. Vabbè, si conferma. Ma non capivo questo rietro che c'è ogni tanto. Va bene, va bene. Non ricordo, cos'è? Cindia. Vabbè, una ghida, biazzato, oggi fa il rientro. La sedì non va via, oggi fa il rientro. Oh, te l'ho detto anche Gianni, te lo sto dicendo io, se ti fidi, se non ti fidi non te dico più. Te lo faccio dire dagli altri. Cappa brioche, no, già mi fido. La gente come mi fido, va. L'hai inteso? Non lo intendi? Non lo vedi tu che ti sta facendo rientro? Ecco, così lo fate più rientro, avanti. Vittorio. Bene, va. L'ho fatto anche adesso, non capisco perché. Cosa vuoi ti dico? Io quello che sento dico, quello che non sento sto zitto. Come ho fatto a farla adesso se ho cambiato la radio, cla? Cazzo, prima di cambiare la radio l'ha fatto. Scusa. Ah, ma cosa vai oggi? Ma la vai fatta appunto. No, è a voi che l'aria di Gozo mi ha fatto male, boh. Non lo so. Cioè c'è un rientro, subito già il radio, risolvilo invece di cambiare il radio, che non virai babai da tirare c'è il radio. Cosa Cla, scusa che ho mandato un messaggio vocale che ho abbassato il volume, cosa hai detto? Ho detto invece di cambiare il radio, risolvilo il problema. Sì, è già risolto. Vabbè, va bene a te, non ci vede. Chiuso il discorso. Vabbè, io te lo dico per esperienza vissuta. Cavo, di sotto non va messo. Ok, vabbè, Natali riprendi, dai. Yeah. Riprendiamo. Per mia moglie fa vedere la rodaretta, non dico se intende più e da che io. Ehi, vabbè, io mi ho chiuso la porta, adesso io mi rompo le palle. Gappa. Ma Gianni che fino ha fatto? Un conto corrente si torna a prendere già. Lascia perdere, la prossima anno devi fare. Radio e la buona di Savia Gussi senza di nulla. Lo rilancio sì o sette volte. Ah, ecco, basta dirlo, mi sono contro un mese, a dopo. No, mi ha preso un colpo di sonno così. Cava. Questo microfono non mi piace più, devo spruzzare di nuovo la medicina. Ma si vede, sarà il coso, sarà la massa, l'affare. Bene, sta andando adesso già. Sì, adesso sì. Lo vedi qua. Non te rispondo io. Sono come mezzo dormito, la vada a ciammare. Sì, io. Stata lì. Puglia. Facci sognare. E cosa ti faccio sognare? Con questa stazione del Menga. Io non mi rompo le scatole. Guai. Mi riserva semente poco questa stazione. Ui. Cazzo c'è azione, bovarino, fa un baracchino all'alimentatore, gli arrugheri e il ciuffo di Virilla. Se pigliendi la malinconia. Cazzo c'è azione già, c'è azione, bovaraccio. C'è un baracchino, cazzo se lo sta guardando non lo può usare. L'altro che è ciurato, c'è un baracchino della mutua con un alimentatore, c'è azione. Ui, cosa saranno le stazioni radio allora? Guarda a vedere se stai innescando, Claudia, che ho fatto una cosa. Sì, hai tolto il capo, l'avevo detto io, no, non stai innescando. Va bene così? Sì, adesso sì. Ok, va bene, la radio buona? Sì, perfetta. Ma non si risente, ma fammi contento o cosa? No, cazzo c'è anche Gianni qua, adesso va bene, come quando si è entrato. Adesso vediamo se difetta. Ma se hai tolto il capo, l'avevo detto io, non difetta, vai già. Sì. via. No, non c'è più niente, adesso no, è limpida. Non ha più difetti. Ebbene, dove entrano Angelino, che è piazza davanti alla Repubblica in via Federico 10? Come arriva Angelino, Claudio? No, beh, a me non ha cambiato molto, non ha cambiato molto, era 9.5 con la vecchia, cioè 9 con la vecchia, 9.5 arriva, 9.5 con picchi positivi. Va bene, mi ascolti, sempre fischiando sta adesso, guarda a vedere, 1, 2, 3, prova radio. No, sta fischiando. Ok, da, ho tolto il cavo da sotto la radio, come mi hai detto tu, va. No, beh. Aumentare, ma si vede, attienilo meno di 2. Forse non ho compreso che è a 1. Meglio, vabbè. Sai, sono diventato di solo, questo. E me lo scappano pure per questo, ma non è una cazzo. Ciao, avete parlato in due, chi era l'altro? Io ero, ho detto, c'è solo l'alimentazione che è un po' decente e me lo stavano portando via, meno male che il mercato c'è, se no me l'avrebbero portato via, manca l'alimentatore. E come quando sono venuti da me la prima volta, Massimo, Natali, ti ricordi l'alimentatore quello grande della ZG che aveva fatto? Va via, da 30 ampere, perché c'avevo già il 430, avevo allora. Hanno visto l'alimentatore, io stavo alimentando l'FM507, mi dice, caspita, costa più l'alimentatore che il baracchino, complimenti. Cosa? No, la gira, Natalino ha detto, vi stai buttando l'alimentatore, no? Quello grosso. E ho detto, volevano fare come hanno fatto a me nel 1986, no, 87, quando sono andato a scuola di Accaggio. Ma io ho diventato in mano della ZG, no? La ZG costruiva quegli alimentatori grandi a trasformatore da 30 ampere. E stavo alimentando un FM500S con il microfono normale, il resto avevo tutto nascosto. Ho detto, complimenti, e caspita, c'è un alimentatore strepitoso. Costa più alimentatore che il baracchino. Gli altri radio dove sono, mi ha detto. Ah, ho pensato che alimentassi anche altro radio. Ha pensato, e poco da pensare c'era, c'erano 6 cavi che scendevano. Io da pirata nel 1987 avevo la stessa cosa che ho adesso qua, mi è esposta, più o meno uguale. VHF, HF ne avevo 4, c'avevo la linea cable, lineare, lascia perdere. Avevo conservato tutto. Ma cosa facciamo? Facciamo un mandato di perquisizione o ci fa avere l'altra attrezzatura? Ho aperto l'armadio e si è succato. No, assolutamente non mi hanno fatto niente, hanno fatto il verbale di controllo. La roba era mia, devi sequestrare nuda, o se sequestrare che si chiuderono non abbiamo, infatti entrare lo vaccone, erano 11 anni, ma la Iana dello vaccone, da 30 metri, perché adesso sono al secondo, prima dal nono però, no. Ho detto, questa roba sta dichiarata, eccola qua, queste sono tutte le dichiarazioni delle radio, tutta roba comprata, non rubata, con i soldi miei, stavo facendo anche un po' troppo tempo. E poi mi ha detto, perfetto, adesso facciamo il verbale, e poi che cosa? Per la detenzione di queste radio dobbiamo fare il verbale, dice a questa radio non dobbiamo verbalizzare che lui è questa radio, però non è in possesso della patente radioamatore, perfetto. Quando me l'ha dato dice lo firmo, certo lo firmo, l'ho firmato, ho guardato, non c'era niente da pagare, ma non c'è niente da pagare, per il momento no. Si ricordi che a maggio ci sono gli esami da radioamatore, se vuole andare ci vediamo la prossima volta, andato sono. E tu li hai ubbidito? Ma andato, gioco, me l'hai giubiliato, sono tornati pure, hai capito? Un carissimo amico, poi siamo, vabbè, lui era già radioamatore, però mi conosceva come CB, me lo ricorda sempre, adesso non c'è più in pensione, capito? E mi ha detto, complimenti, ha visto, ci voleva molto a fare, l'ho detto io, non ci ho mai pensato, ma visto, ci abbiamo pensato noi, adesso lei, tranquillo, sereno, metta tutto quello che ha nell'armadio in esposizione e adesso lo può usare, grazie, arrivederci e buon viaggio, non vi sono più giunti. Adesso cambio radio, adesso faccio girare le radio, se per questa non è stato più usato. Mi sta scaricando il telefono, tutta la linea, il telefono in mano, in Olbia. La mazza, sono rimasto un'ora dall'uscita di Olbia, dalla circonvallazione, bagatta che sono imbecille. Era dietro, ti ho detto, per la strada prendere la Zacchiana dove c'è l'aeroporto. Vai, non la mala, vai. gira qui, gira là, esce da quella rampa, sale nella rampa. Finisce col telefono già caricato. Un attimo. Ma poi può venire in quattro radio cagare. Io. Ok. Va bene. Qui ho Gianni, lo spazio. Come te lo devi tappare lì in quel mobile? Ma se te ne vai, devi tappare. Va bene, stai innescando? No, adesso non stai innescando. Non dici di innescare due, di innescare. Va bene, quando innesca te lo dico. Va bene Mera. Già, non mi ha risposto. Sì, ci dovevo mettere qualche cosa. Lui se può, te l'ho detto, allora, se lo buschi uno, prendimelo e tutti i soldi. E invece dice che non serviva. Ma ho sentito che ti hai preso una radio tu, Caboribogne. Vabbè, non me la fai vedere. Perché non ti ho già fatta vedere? Non ti ho già mandato la foto. Lo standard. Mondezza ci aveva. Se non c'era Mondezza, stavo letto. Poi via una radio massimiliana, con la cassa in legno, tutta maniata dai giuri in questa cantina. Proprio rosicchiata dai topi, sai che trucciolare sono fatte quelle casse, no? Tutta mangiata dai topi, tutta senza manopoli, poi ne aveva un'altra col vetro rotto dello smitter. Per carità, giuito, deni di deni. No, ma roba vecchia vecchia così non conviene più, va. Non conviene più, conviene prendere una roba un po' più moderna, là. Anche un bel Saturneco magari, ce n'è uno subito a 150 euro. Eia, l'ho messa in funzione, messa in funzione, mi è acceso, lo vedi? È acceso, è tutta illuminata di verde, solo può cambiare le due lampadine. Perché c'ha quelle lampadine Massimiliano, non a filo, che c'hanno il portalampade piccolino piccolino ed è a innesto, capito? E non ne ho di quelle, domani li guardo per essere troppo. La maionetta sono come quelle della macchina mia. Sì, sono a 12 quelle. Eia, ti mando la foto accesa perché non te l'avevo fatta vedere accesa. Sì, devo trovarle domani mattina, vediamo che ce le abbia fuggiato, se no devo andare a Elettrauto, perché fare i lampadini di macchina. Sì, la nostra doveva andare via Sorso, dove vendono i ricambi, lì le vendono quelle lampadine. L'Elettrauto ti ripassi pagare con l'usare e con l'ubevaro. Anche Bricco, anche i cinesi ce li hanno quelli. Ehi, sono andando, prima Roberto Rotondo, che lui c'ha tutto. Ma ne porto una, me se dopo la tolgo. Tanto c'è lo sportellino sopra, che lavora, si vede proprio gli smitti, capito? La tolgo e guardo se è uguale, perché il portalampa sembrano più piccoli di quelli della macchina. Speriamo di trovarla, se no devo modificare, devo rimeare quelle due lampadine lì e mettere due col filo. No, ma già ci riesci, già va bene. Controlla la prima se sono fulminate o col tetra se arriva la corrente, controllale bene prima. Sì, ma Massimilia, ti mando la foto, sono tre strumenti in fila, quello di centro è illuminato, gli altri due sono spenti e le lampadine sono nere, capito? Le lampadine sono nere e quindi sono fulminate sicuramente. Perché è tutto insieme il circuito, e uno è dall'alimentazione anche agli altri due, capito? In serie sono, e io poi tolgo, allora mangio più grande, la mia cura radio. Quindi, vabbè, preso mi Massimilia, preso, siamo entrati primi noi e seconda è entrata una ditta di Arzachena, di verde, una cosa del genere. Cioè, andava, io mica l'appalto a travagliare con Lumini, cosa? Massimiliano, un po' di soldi ci vogliono investire, un po' di soldi ci vogliono comprare quei mezzi, Massimiliano. Stiamo noi, meno male, questo sono 120.000 euro all'anno, 10.000 euro al mese sono, non sono molti. Però adesso decide mio cognato cosa fare, perché lì ci vuole il personale del posto, capito? Se no, vediamo, di fare un giro di conti. abbiamo 60 giorni di tempo per depositare gli atti, la carta di aggiudicazione, se no puoi anche rinunciare, capito? Se no vivrei la trasferta giornaliera tutti i santi giorni, da Sassari a Olbia, da Olbia a Sassari, e bisogna vedere se ci rientri completo. Ecco, andando in subappalto a quella ditta di entrata seconda e vai alla grande. Ecco. E quello stava pensando mio cognato, il fatto di fare un atti, un'associazione temporanea all'impresa, e adesso vabbè ci dobbiamo avere mai, e appunto dare una parte a loro. Avanti Roberto. Ciao a tutti, buonasera, ho sentito Massimiliano, a te Claudio, c'è qualche d'un altro, ho sentito un attimino Riccardino, mi ha fatto sentire il segnale, bellissimo, forte, chiaro. Avanti Massimiliano. Sì, ciao Roberto, c'è anche Gianni Doppio Room, Natalino, non so se c'è Luca, boh c'era, è sparito, va bene, vai Doppio Room. Ciao Roberto, mi sentito, me l'ho entrato. Riccardino dove le sentite qua? No, eravamo sul 25, ha fatto la prova, l'ho chiamato, gli ho detto fammi sentire, perché mi aveva detto a chiamarlo quando arrivavo, così non disturbavamo nessuno, abbiamo fatto le prove. Comunque c'è un segnale 9+20 con i picchi positivi, bellissimo e forte. Adesso rimanca solo il micro, forse è rientrato adesso. Avanti Riccardo. Sì, ciao a tutti, ero un attimo in ascolto. Ciao Claudio, Massimiliano, dottor Roma e a tutta la ruota. Ciao Riccardino, vi sentito là? E qua è 9:30, un po' scarsino ma quasi 9:30. Qua sei 9+10 radio 5, prima le 9. Lo vedi, ammirate in tutti, non c'è punto debole, adesso l'ascoltano tutti. Adesso gli manca solo il microfono che lo sta aspettando, lo svettaggio l'MP+5 e per un tanne dice che si è ordinato, così anche lui fa furore. Sono contento, dai, veramente contento, perché è un ragazzo che merita. Avanti, a chi tocca? Natalino? Ciao Riccardo, ciao Roberto, ne approfitto per fare QRT che devo fare cosa qua. Ci sentiamo alle prossime, non posso rimanere. Ciao Natalino, ci sentiamo, dai. Avanti Claudio, oggi il cane non uscì. Sì, nel frattempo stavate parlando a voi, mi stavo preparando. Ciao Riccardo. A me mi arriva quanto è Massimiliano, 9+10. Evidentemente non ce la fa superare, arrivare da me. Io sicuramente gli arrivo più forte, ma lui qua arriva 9+10. Era 8, da 8 è passato a 9+10, già va bene. Ok, avanti Riccardo, riprendi. E anche se mi arrivi forte tu mi arrivi 9+15. Comunque saluta Natalino che stava facendo QRC, ciao Natalino e Argentini. Io Riccardo quando ti arrivo. Ma è un altro passaggio che l'hai fatto breve. Ciao ragazzi, eccomi qua. E più o meno 9:30. Più o meno dai, sono lì segnato. Noi siamo molto vicini, quindi non ci sono problemi. Io ti ho sempre sentito bene. Avanti. Sì. Ciao anche da Ruggito, ben sentito anche a te, compagno di Massimiliano, Claudio, Roberto Quadrato, Riccardino e via dicendo. Dai, va per chi vuoi. Sì, sì. E Massimiliano. Ciao Claudio, ben sentito. Dice Riccardino, mi ha detto che l'ascolti bene, adesso finalmente sono contento. Claudio, ieri Claudio, torre di controllo, ho messo, ho collegato il cavo dell'antenna, nell'HF passo da 7 a 9, dalla 27 da 9 a 7, però nell'HF ho guadagnato tantissimo, segnali proprio spaventosi. Non è volubi, se quella è l'antenna sua, bobina, è normale, va bene. Sì, comunque arrivi bene. Ciao Claudio Chiodo, buonasera, ben ascoltato. Niente, dai, Riccardo arriva benissimo, 9:10 abbondante, quindi ottimo, segnale più o meno rapportato a quello che ti arrivo io, Riccardo, perché anche tu sei, mi ho messo l'occhiale, sei quasi 9:15, quindi 9:15 dai a me, perciò è rapportato il segnale, va benissimo, la grande, complimenti, continua così, metti a posto tutto e già va bene. Signori, io vi saluto per il momento, esco un po' col cane, se ci siete a dopo, altrimenti fate quello che vi piace, ciao a tutti. Ciao Dario, buona passeggiata. Ciò che mi preoccupa è che non abbiamo sentito più Lupo Grigio. Lupo Grigio entrava ogni sera e adesso non... Ciao Claudio, quando vieni poi ci sentiamo. Ciao Claudio, buonasera, buona serata, anzi buona passeggiata e buon tutto, dai. Un po' grigio, se non si attrinza un poco, boh. Ciao Claudio, occhio da Arrugginito. Sì, ti ascolto bene anche a te, dai. Avanti Ricca. Sì, ciao Claudio, la stasera, se rientri, se no ci sentiamo domani. Con Ricca, ti ho mandato l'amicizia, perché non me l'hai accettata? Dove? A Facebook. A Facebook? Ah, non l'ho vista. Ho visto che mi hai mandato la foto, sì, è una bella cosa, hai fatto. Ma mi hai mandato anche una foto con un Turner, ma non ce l'hai ancora? No. Ok, dai. Va bene, avanti Roberto, quello quadrato, cambio. Sei brutto, sporco e cattivo, per quello non te ne accetto. Non avete mai visto quel film, Brutti, Sporchi e Cattivi, con Nino Manfredi, mamma mia, ogni film. Chi l'ha visto quel film? No, io no. Se avete tempo, guardatevelo, guarda, è un film che quando lo guardi alla fine ti fai dei bei discorsi, guarda, allucinante. Un film storico, italiano, della povertà, della cosa, mamma mia. Ok, Riccardo, alla grande, aspetta quando mette il coso, dobbiamo chiedergli permesso per entrare, perché sennò sovramodula tutti, Riccardo. Addirittura. Guarda, io glielo stavo dicendo prima, più lui, più forte di lui arriva solo, vabbè, a parte quelli che c'ho vicino, arriva solo, coso, Luca più forte di lui, lui c'ha 9.20 con i picchi positivi, il segnale suo, vabbè, ieri arrivava 9.10, c'aveva la direttiva, probabilmente era orientata da me, ma lui sempre non meno di 9 arrivava, e figurati che con la radio normale, se attacca Ghidda, la radio, diciamo, il come si chiama, un microfono un po' più potente, schicce già forte. Sì, anche io qua arrivava 9 e adesso arriva 9.10, ma io l'ho sempre ascoltato bene a Riccardo. Sì, adesso lui ci mette un bel microfono amplificato, poi ci mette quell'aggeggio verde che si vede il manopolone a fianco. E poi gli diamo 4.40 con un lineare da 1 kW, te non parla più nessuno. Sì, e poi si sveglia tutto sudato. Allora, piano piano, infatti se li fa piano piano. Dai, comunque c'è da dire, quante settimane lo conosciamo a Riccardino? 3 settimane, in 3 settimane ha fatto un salto enorme, che molta gente ci piega tanti mesi, per non dire anni, per arrivare a mettersi un'antenna del genere. A riguardo di Lupo Grigio, Gianni o Massimiliano, secondo me non vorrei che fosse demoralizzato magari dal fatto che qualcuno lo ascoltava, qualcuno l'ha criticato, c'ha ma di l'antenna, ma è quello, non vorrei che sia per quello. Guarda che l'antenna Franco gliel'ha portata, è uscito anche, e usciva bene, con quell'antenna lì a me mi arrivava 9.10, quasi 9.15 arrivava, e la piazzetta pure l'antenna che l'ha portato Franco, arrivava benissimo. Ma non è invece che è partito, perché mi sembra di aver capito che doveva partire, boh, una cosa del genere. Io al Lupo Grigio l'ho ascoltato le prime volte, quasi, diciamo, non bene, ma benino. Poi a un certo punto il Lupo Grigio mi è completamente sparito, non lo sentivo più, boh, non avevo preso bagoso. Quando era internato probabilmente riusciva a irradiare meglio col baracchino, col portatile. Boh, non lo so, ma non è che magari è andato, perché ho capito che doveva andare a Palermo. Può darsi che sia andato lì, perché doveva rinviato per il coronavirus, forse dovevano tornare subito il biglietto, doveva partire prima, poi invece l'avevano rinviato per la sera del coronavirus, forse sia quello. E da dove è fatta? È l'unico volo che c'è, è da Cagliari, Milano-Roma c'è, buh. E poi in Sicilia non si può entrare, a meno che non c'è la residenza. Nave da Cagliari. E beh, c'è la mamma lì. Se lo fanno entrare adesso. Ah, vabbè, c'è da dire che hanno aperto per i parenti stretti, se c'hai, sperando che non sia successo niente di grave alla mamma, non vorrei che mai sia andato per qualche motivo importante, dai, speriamo bene. Beh, speriamo proprio di no, va. Speriamo che non sia per quello. Va bene, quando vuole già siamo qua, ok, vai Ricca. Ok, anch'io l'avevo sentito, ma vorrei sentire anche sotto la boomerang, e poi da quel giorno l'ho più sentito di quello che boh, non so perché, non so cosa dire, che dovevo andare a Palermo, non l'avevo sentita, la sto sentendo per la prima volta, non lo so. Vai Claudio Muro. Buonasera. Sì, ma occhiolo, anche tu se ci metti qualche vitamina non fa schifo. Ciao Marco. Ehi, va bene, ciao Marco, ben entrato, riprendi. In compagnia mia di Roberto, Riccardino, Gianni Doppio Rutto, Claudio che è andato a portare il cagnolino, avanti per chi vuoi. Sì, il giorno che è entrato Lupo Grigio con la Boomerang, qua più di 9.20 non arrivava, conta che mi arriva 9.20 Riccardino, ma è ben più lontano, è proprio molto più lontano, e conta che da Giulio non arrivava, non lo sentiva, eppure sono pochi chilometri, pochissimi, e quindi sicuramente è rimasto sconfortato un po' dai controlli. Perché conta la Boomerang ce l'aveva sempre in basso ed era circondato dai palazzi, come ha sempre detto lui, dai. Riccardo è 9.20. Oh, robè. Uguale al mio, 9.20 spaccato, con i picchi arriva oltre pure, proprio fortissimo. No, perdona, stavo pensando a Lupo Grigio, 9 più 15, l'età arriva più alto perché sei più in alto, giustamente. Per il giorno la cosa che se la mette sul tetto non te ne risolve il problema. E infatti, adesso non so quali siano i motivi per cui voleva calmare le acque, probabilmente c'hanno qualche casino condominiale lì. Ma e invece Giuseppe Tornado, che non si è più sentito, ci ha comparato tutto e non ha fatto nulla? Ha detto che sta aspettando che venga a me il tempo per piazzare tutto, ha accettato con me. Cosa già? Ha detto che stava aspettando che facesse il tempo per piazzare tutto. Ah, ecco, ok. Va bene. Avanti, chiodo l'arrugginito. Quindi non lo so se ha fatto qualcosa in questi giorni. Vai, rugginoso. Ok, grazie. Infatti non ho messo vitamina perché avevo paura anche di interfacciurare, secondo me. Prova la ricca. Ok, adesso attacco. Attacca. Oh già. Scusa, trovare l'audio, però se non c'ho la... ho chiesto, dai, se no me li mandano, qui ti faccio le connessioni. È un casino, con un semifilo è un casino. Lo so, infatti io non l'ho fatto perché sapevo che era un casino. Sì che sono quattro, va bene, ma sì... mica sempre, c'è quattro alla fine una gazzata. Mi ha sempre rubato pure visto, vai, di salvarti. Ti stanno mandando che cosa, Luca? Lo scherzo. Ho chiesto, adesso aspetto la risposta. Vabbè, che ha risposto quello là, Lu? Sì, mi ha mandato nome e cognome, tanti i dati per fargli il bonifico, mi ha chiesto nome e cognome mio, via, è tutto. Poi domani quando farà fare il bonifico, così gli mando i miei dati. Ok, no, quindi tutto a posto. Quella cosa che mi ha detto ce l'ha comunque. Come? È completa? Sì, ci ha completato di tutto, guarda, non è proprio scacciavittata. La vostra, io sono una cosa bella. Oh, caffè mi serve. Ebbene, Riccardi, aggancia, io. Oh, agganciato. Mamma mia, quanto è saturo. Devi abbassare un po' la potenza delle cose, dell'apparato. Sicuramente è troppo alto. Si può regolare la potenza, Riccardi? Non lo so, aspetta, rimetto l'antenna. 9 più 30 puliti, senza picchi, con i picchi andava oltre, 10 punti guadagna con l'attaccato Ricca, però era saturo, bisogna stare attenti Ricca con quelle, no? Che non stai magari tirando troppa potenza all'ingresso. Ma non ce l'hai un rosmetro Ricca a controllare i watt di quella radio? Sì. E quanto dà la radio? Non me lo ricordo, bisogna controllare. Dico, non ce l'hai un rosmetro per controllare quanti watt esce la radio? Sì, però non ce l'ho attaccato adesso. Va bene, ok. Avanti, Chiodos. Ebbè, è giusto così. Vabbè, ogni tanto è giusto per farla andare, là. Vai Robè. Ma già arriva bene così, a me arriva più di 9.10. Cosa, Claudio? E a te quanto arriva Riccardino? Facci vedere, come era prima e quanto è adesso? Te l'ho detto, io l'ho detto poco fa. A me mi arrivava quasi 9, era proprio un pelino sul 9, adesso è 9.10 pieno. Quindi ha migliorato tanto, e sono tanti 10 punti. Vedi, senza toccare niente, basta un'antenna e migliori tantissimo. Per avere quel guadagno devi dargli minimo 100 watt di potenza a parità di antenna. Molto di più qua era 8 pieno, diciamo, no? Poco più di 8, è passato a 9.15, fate lo conto. Lo so. A me è passato da 9, ieri era 9.10, vabbè, con la direttiva era 9.10, adesso è passato a 9.20. Attaccato da 9.20 passa a 9.30. Ma magari c'ha anche una posizione brutta lui, anche se in alto. Secondo me c'è anche una posizione un po' brutta, è un po' coperta forse per la mia zona, perché io mi ricordo Natalino da lì, ragazzi, era quasi 9.30. Vabbè, anche io l'ascoltavo Natalino pure più fuori, però c'è da dire che Natalino utilizzava un'altra cosa, Massimiliano. Lui sta uscendo con un coso pulito, un baracchinetto pulito che darà 4 watt effettivi, se li dà pure, un vecchio baracchino, e basta. Poi quando mettiamo il microfono già si farà sentire forte, perché è un po' limitato dalla radio rispetto agli altri, però quando attacca il microfono la vide se si fa sentire. Però lui c'ha una radio che esce un pochino più forte di quella. Ma quella che ha attaccato ieri, l'ultima che gli è arrivata, è la migliore di tutti, perché non ha disturbi, non ha niente, l'ha colto, colto Shadow, non so se sta usando questa. Questa qui è Riccardo. Non ho capito, scusa. Questa che sta usando adesso, cos'è? Il Colt Shadow o il T-Berry? No, il Colt. E questo abbiamo fatto le prove, Massimiliano, leggermente, appena appena, un pelutino di più, però non ha nessun difetto, perché quello T-Berry deve alimentare a 12 volt, se no a 2.20 si sente un rientrio sotto, non so se può dipendere dal microfono o la cosa, però si porta proprio presso un distrutto. Non l'ha alimentato. Sì, ma lui ne ha anche un'altra, che c'è più forte del Colt. C'ha il... cosa ti hai preso? Il... boh, non me lo ricordo, cos'è, Riccardo, l'altra? Cos'è, il T-Berry? No, oltre il T-Berry, ne ha un altro, il baracchino, il primo che uscivi, cos'è? Naja 23. 23 Canarie? Sì, 23. Attacca l'antenna a quello, Riccardo, che lo voglio sentire. È un valvolare del 58. No, Alan 23. Aspetta, adesso ha fatto il Naja. Naja, l'altro era il Naja, giusto? Non... qual è lui? Colt Shadow veicolare? No, no, un base, bellino, dai. L'ho visto adesso. Queste radio non mi sono familiari, infatti. Ho visto sia il base che il veicolare. Sai cosa mi ricordano? Mi ricordano i Midland pre-Alan 48, quelli prima del 48, anni fine 70. Sì, il bello è il T-Berry, quello che c'ha lui, il T-Berry è veramente una bella radio. Mi piace tanto, è più grande del Royce pure, perché c'ha l'altoparlante esterno davanti. Scritto Tea Berry. Sì. Aspetta che c'è uno che vuole entrare, avanti, chi è? Ehi, ciao Gavinù, buonasera e ben entrato, va. C'è Riccardino, Marco, Connor, Condor, Gianni Doppio Rum, Roberto Quadrato, Claudio Chiodo Arrugginito da Muros, vai per chi vuoi. Abbassa un po' che stai mescando. Allora, chi è che l'ha sentito a Gavinuccio? Io l'ascolto Santiago 7 e mezzo al QRM, ma non riesco a capire quello che dice, perché c'è molto QRM. E no, dove sta modulando? Non è a Sassi. È a Sennuri. Io lo ascolto, ciao Gavinuccio. Sei a Santiago 2 e mezzo 3, dai, la radio 2. Ma ti ascolto, riesco a tirarti fuori. Mi hai sentito a Gianni che ti ha salutato? C'è qualcuno che vuole entrare? C'è qualcuno che vuole entrare o che vuole rompere? Avanti, chi è che deve entrare? Buonasera a tutti. Ciao Tony. Chi è? Danilo. Ok, ciao Danilo, non lo sentivi a Gavinuccio? Sì, lo sentivo, lo sentivo. Ah, ok, allora gli stavi parlando sopra. Ciao Danilo, ben sentito. Ciao. Marco Condor, ti sto mandando delle foto e ti mando un vocale. K. Ciao, chi è entrato? Ciao Danilo. Ciao. Ascolti a coso? A Riccardino, Daniele. Oggi è a palla. Ma oggi sale bene di segnale e anche di voce. Voce bella perfetta. Quando ti arriva a te dalle tue coordinate? Oh, guarda, questo smitter me lo sono, diciamo, sistemato e diciamo che sale 9, a volte anche 9.10. Però voce 5 perfetta. Ma quello che ho tirato io non ti sono serviti, Dani? Sì, quello lì io sto usando, quello lì è perfetto, solo che tutta quanta la scala me la sono ricostruita. Allora sono contento, da almeno è servito a qualcosa. Ok, sono due, poi tenete uno di sconto lì. Vabbè, quello originale è un pochino grande in confronto a quei due che mi hai dato tu, perché se io quei due che mi ha dato tu lo divido in due si vede che l'ho tagliato, invece così è perfetto, quindi è uscito uno grande e uno un pochino più piccolo. Ok, ma hai usato il circuitino di quello o solo lo smitter hai preso? No, solamente lo smitter ed è perfetto, no, non c'è da dirgli niente. Meno male, sono contento. Almeno qualcuno se l'ha usato, se l'ha goduto. Ok, e dopo Roma avanti che farei girare per Claudio da Muro. Ehi, ciao Danilo, mi hai sentito? Che poco fa non me l'avete mettere rilanciato per salutare. Ciao, avanti Muro, facci sognare. Ok, dai, Claudio. Sì, ciao Danilo, dai, buonasera, ben entrato. Ok, io rilancerei per Marco Condor, hai visto Marco? Il chiamare, eh? Marco sta guardando le foto sicuramente. Ok, vai, è già venuto. Sì, stai un pochino innescando. Aspetta, non modulare, schiaccia solo la portante. Ascolta, ma l'alimentatore da quanto ce l'hai? Abbassa un po' il mitighe, non si comprende nulla. Riccardi, tu lo senti a Galvinuccio la Signori? Sì, lo sento. Considerate se è un segnale basso o che c'è un valvolare che doveva riscaldare. Comunque saluto anche a Danilo che è entrato. Ciao Danilo, se mi senti. Sì, ciao Riccardi. E beh, il cavo piazzato? Sì, ottimo, piazzato per una antenna nuova. Riccardo, hai perso 10 punti, cosa hai fatto? Sono con il valvolare. Perché sei adesso un po' più di 9,10, da 9,20 sei sceso a un po' più di 9,10. Va bene, dai signori, riprendo io, mi devo allontanare dalla radio e ci sentiamo alle prossime, ok? Un saluto cordialmente a tutti, con la buona serata. Vai, doppio uno, riprendi, io non riprendo più, vai. Ehi, allora, ciao, ma ci vediamo, dai, con Corretti. E buona continuazione di serata. Avanti Roberto Quadrante. E ciao Massimiliano, buon tutto, dai, buon proseguo di serata. Ok, vai Riccardo e poi passerai il mic a Claudio D'Amuro, sei a Dani. Vai Claudio. Sì, ciao Massimiliano, ci sentiamo un'altra prossima volta. Tanto io accendo poco e niente la radio, però quando l'accendo sto maggior parte sempre in ascolto. Dai, ci sentiamo la prossima volta Massimiliano, ciao! Ciao Massimiliano, saluto, arrivederci più tardi o domani. Comunque Danilo, ti volevo chiedere se vuoi dirlo, da che zona vuoi? Breco, avanti, avanti Breco, Italia, Nord Sardegna, avanti amico che fa Breco. Attention my friend, nada, no, riprendi tu che ho arrugginito, poi fai girare, dai. Venga amico, vete, si me escucha, vete al canale 11, 1-1, 11. Ok, ti ha sovramodulato lo spagnolo, buona tarde, spagnolo Iberica, si escucha l'isola del Sardegna, cambio. Adelante compagnero. Breco. Adelante compagno. Oh, vabbè. Vivi qua. Ehi, vabbè. No, niente, ti volevo far sentire lo standard, quello che ho piazzato, se andava bene. Questa è una bomba, ecco. 8 watt. Quasi 10 watt modulati, cioè, dai, già va bene. E il microfono con quello che sto utilizzando? Il microfono è sempre lo stesso, l'MB+5. No, già spinge, bello forte il segnale, se 9,55 con l'altro è un po' più forte, però la radio è ottima. Venga, 9,55, adesso quanto è il segnale? 9,80. 9,60 oltre. Ah, ho visto, è già sale, dai, va bene. Ci sentiamo, dai, te lo volevo solo far sentire. Gianni? Via, dimmi qua. E questo è quello che ti ho mandato la foto, dai. Esce bene. Termina la radio. Via, vabbè, è agganciato. Adesso te lo sgancio. Tanto non c'è bisogno. Ecco qua, così è sganciato, è anche più forte la radio, dai. Va bene, ci sentiamo. Ciao a tutti, QRT per me. Vado a cenare e mi guardarmi un po' di TV. Ciao. Ciao Claudia. Ciao a tutti, ciao. Anche io vado a mangiare, dai. Ci sentiamo. Ciao, già. neanche a te, dai, avanti, doppio, scusa, chiodo da Muroso per salutare a Claudio e a Gianni. Ok, grazie Claudio, ciao Claudio di Cassari, saluto a Claudio di Cassari e a Gianni, ciao, buon respiro, buona carica e arrivederci. Ciao Ricca, grazie, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao. E a Giulio mio. E beh giù, a Riccardino come l'ascolti tu adesso? Sì, l'ho sentito prima di te io, a Riccardino, benissimo. Arriva col tuo stesso segnale. Col mio segnale addirittura? Col tuo segnale, sì. E figurati se attacca qualche cosa Riccardo, fa male a un dirigente, no, ma io l'ho detto, ero sicuro che migliorasse tantissimo, soprattutto adesso poi, cioè, quando arriverà al microfono dobbiamo chiedere permesso per entrare se c'è lui che sta parlando, se no schiaccia un po' di gente. Ok, ne hanno telefonato per scendere giù. Sì, 9+10, come te, è anche più di quella radio di Claudio, anche lui, anzi un po' meno anche, con quella radio nuova che hai. Proprio là, gli hanno telefonato per scendere al cenare, ciao, ci sentiamo. Ciao Riccardo, poi c'è Gianni, mi sembra, sì, Gianni, Claudio da Muros, Claudio già chiuso, lo so, Claudio grande, poi ci sei tu Roberto, non c'è altro nessuno mi sembra, boh. Vabbè, saluto a tutti, ciao, chiudo. Ma perché io 9+10 ti arrivo con questo baracchino? No, guarda bene. Ma prova a staccarvi lì. Ciao Mastro Giù, ti è piaciuto? Bello, no? Sì, bello. Con attaccato così, se 9-18, 17-18, là. Quando stacchi invece sei intorno ai 9-5, una cosa del genere. Ehi, vabbè, va, ti giochisci, venuto da là. Ciao, buona cena con tutto, di nuovo, ciao a tutti, che chiudo, che è pronta la cena, ciao. Ok, ciao a tutti, chiudo, vai, vabbè. Ciao Giù, ben sentito, dai, ti sentiamo sempre scappando. Un attimino, 5 minuti ti ascolto, già 2-3 giorni di seguito ti ascolto 5 minuti. Dai, ci saranno momenti più lunghi come conversazione. Avanti Riccardo per Giulio e poi chiodo a Ruginito da Muro. Ok, ciao Giulio, passo per cambio per Muro. Sì, ok, saluto anche io. Ciao Claudio, ciao a tutti, sto chiudendo anche io adesso che il piatto è già caldo. Beh, ci sentiamo un altro momento. Comunque Ricca, anche quel cavo secondo me ti ha dato una qualità a salire un pochino. O sto sbagliando? Ciao Dani, scusa, mi ho dimenticato di salutarti. Ciao Dani, chiudo. Sì, ciao. Ciao Dani, ci sentiamo. Sì, il capo è fondamentale, ti togli anche un po' di sporcizia, eccetera. Io l'ho già piazzata l'antenna, Danilo, diciamo non è installata al 100% perché non l'ho sollevata come la devo sollevare, deve arrivare a cima al palo, infatti un radiale non l'ho potuto mettere, ma l'ho messa soltanto per distendermi il cavo e appoggiata. Dai. Però nell'HF migliora da 7 a 9 passo, nella 27 è il contrario, da 9 a 7. Sì, no, già è vero, anche il cavo fa il suo dovere. Sì. Beh, comunque adesso chiudo che vado a mangiare, dai. Dai, ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao Dani, buona carica, buon tutto. Vai Riccardo che poi passerà a Claudio di Muro. Andare anche l'altro. Abbiamo parlato uno sopra l'altro, dai, ci avrà sentito. Vai Claudio, Muro. Adesso lasciamo un attimino di bianco, facciamo una chiamata sul canale 10. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare? Avanti con la buonasera. C'era poco fa quello spagnolo che arrivava oltre 9, molto forte di segnale, però adesso la propagazione probabilmente è terminata. Ok, riprenditi il mic, Riccardino, e facci sognare, dai. Quello spagnolo infatti sembrava uno scherzo, comunque saluto a Danilo, ciao Danilo, comunque arrivederci alle prossime. Adesso perché so che comunque non è questo radio. Ok, dimmi un po', Claudio di Muro, se tu adesso stai utilizzando la 48 o che cosa? O il Polman? No, no, già sta andando bene, è molto forte la radio. Ok, niente da dire. Cosa volevo dire? Non c'è nessun altro. Natalino è andato via, Claudio del Monte è andato via, Claudio di... proposito, Luca, c'era poco fa, non so se l'abbiamo dimenticato, mi dispiace, sei in stand by. Luca, ci sei ancora? Sì, sono qua, che sto attaccato a Robè, cercando di fare una connessione a un 48 plus. Ehi, ok, dai, buon divertimento, dai, divertiti. Ok, dai, cosa volevo dire, altri non ce n'è, allora vatti tu Riccardino e riprenditi il mic. Claudio, diceva a Muro, diceva papà se andavi alle feste, ma per quale gruppo suoni? E ho capito, poi Robè. Mica c'è Marco, è il Condor Paz, avanti Marco. Sì, rilancio Eugenio dal fondo, Robè, che mi arriva a basso, vai, fa, tanto sto sempre mangiando io, vai. Eugenio, il più forte di Porto Torres, avanti. Io avvicinati un po' che ti sento nel fondo, Eugenio. C'è anche Riccardino, vediamo se lui ti ha ascoltato meglio. Avanti Riccardo per Eugenio. Ehi, scusate, lo sento sempre forte, anche adesso mi arriva, no, per aggiustare. Dai, vabbè, dai, io sono situato qua a Tirreni. Vabbè, devo lasciare vabbè. Ehi, non c'è problema, quando vuoi. Guarda, sei uscito dalla Tirreni, perché stavi parlando da dentro da là? Infatti stavo dicendo, cacchio, sei arrivato alla nave, arrivavi a Santiago 7, complimenti, qua c'hai un kilowatt nella motrice. Ti apro il telefono con me. Sì, resta, gli arrivando a bomba. Riccardino, 9.15, ottava, ottimo. Non ho capito chi sei, scusa. Ottava, 9.15, Marino, ciao Riccardino. Ah, ciao Maria, anche tu arrivi a bomba. Va benissimo, complimenti, ok. Ciao, ciao, sono il quello che ci ascolto e che sto facendo cosa, ciao. Ma guarda, domani mattina, Eugenio, ciao. Domani mattina, adesso vediamo cosa mi dice e poi se mi dice ok già ci sentiamo direttamente domani, dai. Se mi dice ok, se no c'è bisogno luce, non lo dico io. Ok, ciao Eugenio. Io non mi ascolto, c'è anche Roberto, se stai ascoltando, vai, e a Luca, ciao. Ciao, avanti di Caldì, come si per me, ciao. Sono rientrato io, chi è Franco? No? Che? Sì, vado io, ciao Roberto, sono ascolto, e sto facendo un lavoretto, ciao ciao. No, non ho capito, sei Franco, quello vuole. No, negativo, Marino, Roberto, ciao. Ciao, aspetta, devo se mi confondo con te. Ciao Marino, ben sentito, dai. Ok, c'è anche Riccardino, c'era Luca e Eugenio e Claudio da Muros. Facciamo girare, vai Riccardo per salutare a cosa. Marino. Sì, ho salutato, comunque, saluto allora. Ciao Marino, grazie anche tu arrivi in forte con questa antenna. Ok, okay, vabbè, ti chiedo scusa, sono ascolto che sto facendo un lavoretto al computer. C'è anche Claudio di Muro, se stai ascoltando, va. Ok, riprendi Riccardino e quello che si prenderà. Riccardo, riprendi. Si comprende nulla, Mario, se si vede. Infatti anche a me mi ha confuso, ma io ho troppo amplificato, un po' satura la voce. Ok, c'è Eugenio che sta scaricando, come si chiama, motrici, caricando banane e altre cose. Avanti Eugenio. Ehi, dai. Ok, vai Muros, non so se l'hai ascoltato, Eugenio te lo rilancio. Avanti, ciao Claudio, ben sentito, è sempre un piacere, soprattutto per l'educazione e per il rispetto. Non era, ed è un po', diciamo adesso è meglio, ma a tempi passati era un po' difficile trovare persone così scrupolose, educate e chiedono sempre il permesso prima di dire qualcosa. Ok, vai Massimiliano. Sì, no, ero di passaggio. Ciao Claudio, l'avevo già salutato prima, ero solo di passaggio, ma sto chiudendo. Ciao a tutti, ciao ciao. E ciao anche a te Massimiliano, vai Riccardo. Ok, ciao Claudio da Muros, mi saluto anch'io, faccio in fretta, vado in carica e poi torno. Ok, se coincide male ci sentiamo dopo. Dai. Io ho già mangiato una cosa veloce, rimango un po' qua in ascolto, se rimane qualcuno, se no faccio un giro in altri canali. E anch'io stasera voglio accamparmi qui in garage, mi sono messo in vano per sempre, sono appostato e voglio provare se fa caldo, se no se non fa troppo freddo mi appoggio qui in carico colazione. Beh, già hai visto, gli è entrata la mania anche lui, dai, sono contento, dai, fa un piacere, poi sono contento finalmente, va. Vabbè, io non ho mai avuto problemi, l'ho sempre ricevuto bene, per quelli che lo sentivano bassi, adesso lo ascoltano tutti forte e chiaro, ecco, state attenti perché adesso quando attacca il microfono l'MC60, il tunnel o l'MB+5, per farla entrare dobbiamo fare chiedere il permesso, se no ci sovramodula tutti. Stanno parlando? Come? Chi è che parla? No, Eugenio, ho chiesto se stavano parlando perché a momenti mi scompare. Eugenio è nel camion, la motrice giù a Porto Torres, non è a caso. Lo so, è un po' oscillante. No, volevo chiedere, com'è finita poi per quel MB più 5, diciamo, bollato? No, gliel'ha restituito, ne arriva uno nuovo da Cagliari, c'è l'altro fusaro, glielo mandano, speriamo che glielo mandino quanto prima, che Cagliari è già vicino, non è che deve arrivare da Parigi. Ok, no, c'è uno che sta parlando sotto, avanti chi chiama sul 10? Cacchio, io c'ho il QRM con questa antenna altissima, mi ho messo, Marco, l'altra antenna adesso, si abbassano tanto i segnali nella 27, però nelle HF guadagno da 7 a 9 passo. Dimmi Eugenio, ma non sarà quel Midland 48 XL Multi famoso? Sono contento che funzioni, dai, un po' rumorosetto è ricezione, ma già se la cavo, dai. C'è uno basso che chiama, sotto Eugenio addirittura, Robè, guarda se lo senti tu. L'ho sentito poco fa, però l'ho rilanciato e non ha risposto. Avanti, chi chiama su 10? Io ho il QRM a 8, purtroppo se sono più alti di 8 sì, a meno che non hanno una radio che spinge, se no non sento nessuno sotto l'otto. Eia, mi hai detto che hai cambiato antenna, ma sempre verticale? Ho messo una PKV on-road, un'antenna di 9 metri, che fa da 0 a 30, e l'ho messa per le HF, per ascoltare le HF. Ieri ho fatto delle prove, in 27 se non accordi c'hai il coso a manetta, il rosso. L'ho accordata e i segnali passano da 9 a 7, mentre nelle bande basse ho un guadagno di 2 dB, da 7 a 9. Eia, però ti do un po' di QRM, io ho due circa di QRM, uno, due, c'era oltre tre, ma poi sto vedendo che il cielo verso Alghero sembra color piombo quasi, un po' bruttino, non ho seguito le previsioni, ma presumo che possa piovere anche domani o stanotte. Vediamo se c'è ancora Riccardo. Riccardo, ci sei? No, Riccardo è andato a mangiare, dice che si è organizzato col divano, così la notte fa le ore piccole, dai. Eia. Certo, se ci fosse anche qualche coetaneo si divertirebbe di più, no? Come facevamo noi quando eravamo pizzini, 14 anni, c'avevamo tutta la greffetta nostra, andavamo sul canale 1 sotto, che non si poteva, ma andavamo lo stesso, a farci la routine nostra, anche perché a seconda di che canale, in che canale finivi, non ti consideravano all'epoca, anni 80, si mandavano i miei alle volte. Diciamo c'era più intasamento nei canali, ma basta vedere su TCB Talk cosa c'è adesso, è una cosa assurda. Tu ce l'hai TCB Talk? Aspetta, mi ha chiamato mamma, sì, ho sentito fino a che una volta era più affollato e poi... Una volta negli anni 80 era molto affollato, i canali tutti c'erano decine di persone. Adesso ho detto, basta vedere cosa sta succedendo su TCB Talk, ce l'hai TCB Talk? Eia, però non lo usiamo, cioè l'abbiamo usato mesi fa per prova, però conta che io i canali nazionali non li considero, noi l'abbiamo provato sui canali locali entro i 30 km. Per i canali nazionali lì sembra la vecchia 27, ogni giorno una polemica, un bisticcio, poi quelli del sud certi hanno modo di fare un po' più a sud di noi, no? Tipo Campania, no? Hanno modo di fare certe volte un po'. Per esempio un giorno Doppio Roma ha fatto una battuta. Una battuta come si fa in 27, dice, beh, come va in questo canile? E questo si è girato male. Cioè, gente anche che non capisce la battuta, dai. Allora, la maggior parte della gente che c'è di lì dentro non è mai stato CB. C'è qualche radioamatore che c'è, è un piacere ascoltarli, perché molte volte ci ho parlato ed è anche un piacere ascoltarli, ma il 90% delle persone che sono di lì dentro prendono il coso tipo Facebook a scrivere fesserie, di lì invece le dicono le fesserie. Ci sono un sacco di donne che è una vagogna, cose di gelosie, di parolacce, di disco, ogni giorno io qualche volta accendo. Adesso ero da molto che non accendevo, ma due giorni fa vado ad accendere ed era bloccata. Ma che cavolo è successo? Insomma, io sono di quelli più anziani, diciamo. E adesso sono arrivati pari a 700.000, quando l'ho fatto io mi pare erano 80.000, una cosa del genere, ma l'aveva fatto fare Giulio. E adesso adesso è diventata una porcaccionata. E io quando, come si chiama, sono andato a attaccare la bloccata, l'ho dovuto rifare tutto, e non so per quale motivo mi hanno mandato un altro codice, e io pensavo che ripartissi con una numerazione diversa, invece mi hanno tenuto quel numero progressivo che mi avevano dato. Tu che numero sei, Marco? Ehi, l'ho acceso adesso. Sì. Comunque è anche vero che molti camionisti che prima, che ne so, erano sul 5, anche risentivi di più, tutti emigrati, perché lì non rischiano nulla. Tu conta per parlare in tutta Italia, se poi hai il mic della Midland, funziona sia sul 48 o sia in Bluetooth con l'applicazione, quindi come tu perdi un contatto diciamo via radio, che il baracchino ha sempre una portata limitata, puoi contattarlo direttamente tramite applicazione, mi pare che il PTT sia doppio, qui lo dico, qui lo nego, quindi è una cosa buona. Poi non rischiano anche tutti i casini mettendoli